Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Benvenuti signori miei, domenica 14 maggio, 14:34 primi e 58 secondi, vabbè diciamo 14:35, dai. Allora, oggi è la festa della mamma, voi sapete che ogni ricorrenza, noi ricordiamo il giorno che va in onda la trasmissione, chi ci ha regalato qualcosa con la sua voce, che sia un attore, che sia un cantante, eccetera, ma oggi è la festa della mamma. Allora io avrei scelto, così mi autocito, no, nel senso come voce, una poesia di Pierpaolo Pasolini, Supplica a mia madre, la madre che non c'è più, e chiederei all'ospite che ho al mio fianco, senza dire il nome, se mi accompagna, invece mette un sottofondo, perché non mi accompagna lei con la sua chitarra, lei che è bravino con la chitarra, non parli, una cosa leggera, è Pasolini, comunque. Ecco. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo. Ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima, perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre, e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo, ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico non voler morire. Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile. Beh, devo dire che un accompagnamento del genere non era facile. Al mio fianco un grandissimo chitarrista, io non so come definirlo, se è un cantante, cantautore sicuramente, però io credo che lui ami di più essere considerato un grandissimo chitarrista. Anche. Lui è Alex Britti, eccolo qui. L'applauso spontaneo. Adesso puoi parlare, Britti. No, è bello, mi hai accompagnato con la chitarra. È un piacere. No, poi la mamma non si può dire. No, chiaramente. Tu mamma c'è ancora? Sì, c'è ancora. L'ho vista un minuto oggi, esatto, soltanto gli hai fatti gli auguri. Di passare a portargli un mazzo di fiori. Beh, vabbè. Ma proprio di corsa. Anche tu un sei. Un minuto, però almeno... insomma. Fatelo. Chiunque sia all'ascolto in questo momento, fatelo. La mamma... pagare qualsiasi cosa per ritrovarla, per cui fatelo. Allora, mi metti un sottofondo invece e voglio presentare Britti come se fosse un bel film. No, perché sia una brutta commedia. Alessandro nasce a Roma, ma così sembra proprio una cosa. Così sembra un film, questo sarebbe un bel film. Mo' voi. Ricordo il povero Britti. Ma dove vai al cinema, scusa? Io saluto Valerio che oggi, visto che la Roma gioca stasera, sia Britti qui che Valerio, perché la Roma gioca alle 20:30. Siamo un po' in pre-partita, diciamo. Esatto. Rachele, grazie, la nostra capo redattrice di se stessa, e i miei autori insostituibili Mauro Meconi e Alessia Navarro, che oggi sarà anche ospite, visto che debutterà martedì al Quirino con Frida Kahlo, capito? Qui ci sono citazioni interne. Per cui ospite, vabbè, è così. E allora Britti, inventi una cosa sono un po' più allegra. Musica, perché quella lì era la musica di un film, di un cinema che ha chiuso. Quella musica, esatto. Lì. Esatto. Adesso invece ce n'è uno che è ancora vediamo aperto. Che Valerio che cosa ha fatto. Vai Valerio, parti, che voglio la biografia minima di no, Alex. C'ho la chitarra, la rifaccio io se vuoi. Sì, ti accompagni da solo sulla tua biografia. Vabbè, ok, Britti okay. Si accompagna da solo. Ma no, va bene. Ecco, allora, questa è... Alessandro nasce a Roma nel 1968, ad agosto, nel quartiere Monteverde Vecchio. A 26 anni inizia la sua carriera debuttando al concerto del primo maggio e due anni dopo, in collaborazione con Sergio Gammariere, realizza la colonna sonora dei film Uomini senza donne del 96 e quella di Stressati del 97, in cui fa parte anche del cast. A 28 anni firma un nuovo contratto discografico con la Universal, pubblicando l'anno successivo il singolo Quello che voglio, singolo che gli vale 3 dischi di platino e il primo posto in classifica. Dopodiché è un un successo dietro l'altro. 1998, PIM, premio italiano della musica, miglior artista esordiente. 1999, vince Sanremo, nuove proposte. 2000, triplo disco di platino con l'album La Vasca. Pensate, amici di Voice Anatomy, questo straordinario inizio di carriera non è nulla rispetto a ciò che ha fatto negli anni a seguire. Signori, al mio fianco, eccolo qui, l'ho presentato 6 volte, Alex Britti! Allora Britti, qui ho cominciato dall'inizio, io invece avrei adesso un bello che ti accompagni da solo così, sembra di stare nel Texas. Oddio, sì. Sì, io suoni anche come faccio. Vai, a casa. Mi piace. Vedo la televisione, leggo il giornale sul computer, c'ho qualcosa sul gas dietro, una pentolina, e nel frattempo sto lì e suono. Beh, bellissimo, riesci ad avere 6 mani perché... Va bene, tu continua così, parlare di te non è male. Però a questo punto, Valerio, io chiederei, abbiamo cominciato dall'inizio, mi ascolterei invece qualcosa già di questo momento importante della tua carriera, visto che è uscito l'altro album, Il Nome dell'Amore, che è il volume... Il volume 2. Questa volta ho diviso il disco in due parti, perché... Sì. Perché c'è avevo scritto una serie di canzoni, ho visto innanzitutto che erano tante. Non riesci a parlare e suonare, vedi come sei però. Ah, ma che scherzi, io no, mi dà fastidio. No, Britti, no, vai. La gente sente... No, io per non dar fastidio. Ma non dai fastidio. Erano troppe canzoni, magari sì, c'entravano, però non avrebbero avuto l'attenzione dovuta. E allora ho preferito dividerle in due, cercando di separare la prima parte più cupa. Un po' più cupa, c'era una canzone, l'amore, la prima canzone un po' uscita. Irrisolto. Dopo parliamo di che cos'è l'amore. Di, insomma, una canzone anche abbastanza drammatica. E quindi ho voluto dividere. Però l'hai scritta nello stesso momento, sì. Momento solare e momento buio. Yin e Yang della stessa. Esatto, cioè... decadente e romantico insieme. E adesso invece è uscita la parte più solare, più chiara, più felice. La più speciale. Esatto, la più speciale. E allora a questo punto io me la sentirei questa bella speciale. Alex Britti, Il Nome dell'Amore. Volume 2. All'istante, sguardo compiacente, subito l'intesa che speravo con te. Evitando strani perditempo, inizio a scoprire un uomo nuovo in me. Troppi errori sulla pelle, troppe le mie stelle come luci in città. Ecco adesso prendo tempo, porto la mia vita in un'altra realtà. Sto con te perché sto meglio, sto con te perché mi va. Centro, invece di lasciare sempre tutto a metà. Presento con un fiore rosso, all'occhiello, la tela di un ombrello, piove ma non ci bagniamo neanche un po'. Parliamo al massimo, si ride, al minimo l'istinto si affaccerà. Quando al limite di un caldo più dell'Africa, darò tutta la colpa al solito Peter Pan. Sto con te perché sto meglio, sto con te perché mi piaci, e anche oggi ho fatto centro, perché vuol dire che ne siamo capaci. Sto con te. Banale, anche Poi dobbiamo parlare dell'amore. Adesso è finito il primo blocco, Alex. Non posso chiederti niente sull'amore, perché è una cosa importante. È importantissimo l'amore. Beh, fondamentale. Sta tutto lì, eh. Amore positivo, amore negativo, amore positivo negativo. Ma è sempre qualcosa di forte. L'amore è la benzina, alla fine. Quella è la passione. Bisogna vedere quale macchina la metti, se sulla tua o su quella di lei. Quello è il problema della benzina. Che certe volte magari fai il piano tu e vai, no, via magari. Però fa bene lo stesso. Fa bene, no, l'amore fa bene, assolutamente. Britti, resta con noi. Stiamo andando in pubblicità un attimo. Non fai lo stacchetto? Non lo fai. Dai. Faccio lo stacchetto. Allora, Boys Anatomy. Sì, ma come fa una, come mi fa una blusata? Ma come fa una cosa normale? Niente, non c'è niente. Volevo fare proprio musichetta delle comiche, sì, pin. E adesso a questo punto andiamo in pubblicità. A tra poco, Radio 24, Boys Anatomy, Alex Britti. Vi ricordo che è appena cominciata. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei. Voice Anatomy al mio fianco, l'uomo imperterrito con la chitarra. Lui dorme con la chitarra. Non so se la tua dolce metà accetta il fatto che tu non russi, ma suoni la chitarra la notte. No, ultimamente, ovviamente, quando sto con lei, no. Quando sono a casa, no. No, esatto. Però di solito, prima sì, quando ero da solo, sì. E poi a casa, io sono stato a casa, Alex, ho la fortuna di conoscerlo più o meno da sempre, perché siamo dello stesso quartiere come il povero Luca Barbarossa. Povero nel senso scherzoso, ovviamente. E lui era sull'altra collina, sì, però noi eravamo dalla collina. Noi Monteverde Nuovo, non eravamo quelli veri. Monteverde Vecchio, Gianicolo, quelli ricchi, insomma, veramente. Non è vero, perché era un quartiere popolarissimo. Poi si è trasformato. E dico, lui ha una collezione di chitarre pazzesca. Quante ce n'hai adesso di chitarre? Compreso qualche basso, un'ottantina. Un'ottantina, sì. Che insomma non è che so poi moltissime. Ma non sono tante, sai? No, no, è vero, no, no, vanno via così, se rompono, cascono dal muro. Guarda, poi partirei poi con qualcuna di loro. Chitarre elettriche, chitarre, sì, classiche, 12 chitarre corde, acustiche, 12 corde, esatto. Questa nuova che hai trovato, che hai cercato da tanto questa tempo. Questa è fantastica. Questa, che cos'ha di portare questa chitarra, che io la vedo esattamente come un corpo di una donna, arrotondato, bello. E questa è la chitarra con cui è stata suonata la storia del blues. L'ho cercata, è una chitarra piccola, sì, della Gibson, molto antica, del 35. E qui nasce il blues proprio. Sì, con questa proprio Crossroads in mezzo a... Cioè, non è che la prendi e suoni blues, devi, no, conoscere, ah, devi saperlo. Non è che se tu mi passi questa chitarra, no, tu cominci come bluesman. E sei rimasto. Io bluesman. Inizio, esatto, a parte un inizio da cantautore quando ero ragazzino, che insomma a casa mia non giravano dischi di blues né, no, nulla, quindi no, ascoltavo le canzoni di Edoardo Bennato, di Stefano Rosso, Ivan Graziani. Cioè lo startup, insomma, è lo startup, è stato quello per cui tu, sentendo questo, poi sei partito. E poi per caso c'era già Video Music, ascoltai una canzone. Non fa finta di essere giovane, c'era Video Music. Eri, no, già grande con, sì, Video Music. Io ho già 35 anni, esatto, però diciamo. So, sembra che c'hai 18 anni durante Video Music. No, ne avevo 14. Avevo 14 anni, c'era il video di Steve Ray Vaughan, una canzone di Steve Ray Vaughan, e vidi quel video e mi sono innamorato del blues. Quindi da lì ho cominciato a comprare, andavo da Revolver giù sotto casa a Trastevere, scendevo una scalinata, mm-hmm, e andavo a comprare, mi compravo i dischi, poi li imparavo a memoria e ho iniziato a suonare il blues. Là vicino, sempre lì vicino, sempre a una scalinata più o meno da casa mia, c'era il Big Mama a Trastevere, un locale dove ho iniziato ad andare a suonare spesso. Il Big Mama e l'Alexander Plaza sono quelli, no, i, esatto, posti dove il jazz, Big Mama, il blues, più Big Mama il blues, esatto, e l'Alexander Plaza più il jazz. E io ho iniziato quando avevo 17 anni, che ho iniziato a suonare la chitarra con Roberto Ciotti, il gruppo di Roberto Ciotti, io un altro ragazzetto, ritmica, esatto. E quindi poi ho iniziato ad avere anche un trio mio, suonavo con una band che si chiamava Roma Blues Band. E insomma, praticamente ho iniziato, stavo ogni sera lì al locale, al Big Mama. Per cui tu ti sei sempre considerato un chitarrista? Cioè, il cantautore, volevi percorrere quella carriera del cantautorato, oppure volevi soltanto accompagnare ed essere... Ma non c'è. Non c'hai mai pensato? Non c'è differenza. No. No, nel senso che ho sempre... In realtà no, ho sempre cercato di cantare, e ho sempre scritto canzoni, soltanto che non mi cagava nessuno, detto in soldoni. Sì, sì, siamo dei, siamo comunque con la chitarra riuscivo, esatto, con la chitarra riuscivo almeno a pagarmi le bollette, l'affitto, eccetera. Cantando, no. No. E quindi, beh, la carriera da cantautore è più difficile, perché come chitarrista potevo suonare con me e con gli altri. Poi partivo, spesso suonavo con un gruppo. Quando hai cominciato ad andartene all'estero subito? All'estero la prima volta avevo 21 anni. sono partito per fame, praticamente. Non ti avevano invitato, perché... tu sei andato. No, no, avevo un mezzo invito perché avevo conosciuto questa cantante che si chiamava Rosa King. Non ho dubbi. Cantante che... sassofonista americana, mi ha detto, insomma, ci avevo suonato a Roma, mi ha detto raggiungimi, lavoriamo un sacco, e difatti è stato così, sono andato su in Olanda, ho cominciato a lavorare immediatamente. Col treno. A farmi un giro, no, all'epoca ancora volavo. Ancora volavo. Bisogna dire questa cosa, che forse si può dire tranquillamente. Alex ha una paura fottuta dell'aereo. Sì, non ci salgo, quindi. No, io sono anni che cerco di convincere. Facciamo insieme, ci abbracciamo durante il volo a costo di fare outing, no, all'arrivo. Peggio, no? Guarda, così peggio. Manco la macchina. Abbracciati. Ma insomma, niente, ho cominciato ad andare su e a scoprire che oltre a trovare lavoro trovavo anche cultura, trovavo, sì, esperienza, sì. Suonavo con un sacco di musicisti importanti. Quell'Europa lì era l'Europa che contava, sì, dal punto di vista musicale. Quello. C'era il triangolo Parigi, Amsterdam, Londra che girava, sì, un sacco di musica. Che non era proprio profumo, ma era proprio profumo di musica, che normalmente, sì, è Milano, sì, era... Londra, Parigi. No, no, era fantastico. C'era un sacco di jazzisti, c'era un sacco di bluesman che giravano. Cose in realtà musicali che in Italia non arrivavano, no, ovviamente. Quindi lì, oltre a lavorare, ho fatto, insomma, il pieno di tuttora cultura, è molto di esperienza. Difficile girare col blues, insomma, cioè, l'Italia non è quella patria dove dici sono il blues, allora vivo. No, adesso in Italia tu, sì, in modo particolare manca un po' la parte media, il ceto medio, sì, musicalmente parlando. Della musica, nel non senso è male, che sì, o giochi, fai parte del mainstream, o muori di fame, o è veramente dura. Difficile. O se no, sì, c'è un po' di circuito jazz, però devi lavorare, devi cercare di agganciarti al circuito, quello che chiamano worldwide. Devi portare anche vino a tavola lì per arrotondà. Giri. Sì. Non solo suonare durante la sera, ma anche durante, no, la cena devi lavorare. Devi fare tanti chilometri, devi lavorare tanto all'estero, devi, sì, volare. Adesso il jazz, il giro del jazz mondiale più grosso è in Francia, non più in America. Vabbè, tu col treno ci si arriva. Quindi, in Francia. Sì, adesso. Sì, sì, tu non hai anche problemi. Spesso, no, no, figurati. Tu ci vai tranquillamente. Macchina, sì, macchina, sì. Solo, sì, aereo, macchina. Solo aereo. Solo l'aereo. Ma sì, l'America, no, ti ha invitato? Io te l'ho chiesto privatamente anche mille volte. Mi ha invitato un sacco di volte. Ma ho tu... una mail costante che mi arriva ogni sei mesi di un organizzatore di concerti di New York. Il Titanic è peggio prenderlo. Il Titanic comunque è brutto, finché non fanno il ponte sullo stretto di Hudson. Sullo stretto di Hudson, da qui a lì. Non ce la facciamo. No, non riesco. Da Civita Vecchia non arriva a New York. No. Ci metti una settimana in nave. È finita la nave. Non ho mai avuto, esatto, mai avuto il tempo. Vabbè, mo una vita di queste, ma una vita di queste non è male. Senti, tu hai suonato, veramente hai duettato con tutti, non lo sapevo, non mi ricordavo che hai duettato anche con Ray Charles. Anche con zio Ray, sì. Con dove, Ray Charles. Dove è l'incontro? È stato a Sanremo, un Sanremo, non il Festival di Sanremo, ma una serata televisiva a Sanremo che organizzava la Rai, che in realtà io non volevo andare. Certo. Non volevo andare perché avevo da fare, ero in tournée. Però poi ho saputo che c'era Ray Charles tra gli ospiti. Allora gli ho detto, vabbè, se organizziamo. Certo. E allora sono andato, ho cantato Oggi sono io con l'orchestra. E poi ho accompagnato alla chitarra Ray Charles che cantava Volare di Modugno, una versione in inglese. C'è su YouTube. Esiste, tutto, eh? Testimonio. Sì, sì, c'è su YouTube. Che bella cosa. Com'è, sì, stato il contatto? Io ho solamente doppiato Ray, il film dove doppiavo Jamie Foxx e doppiavo la voce di Ray Charles. Impossibile, difficile. Infatti qualcuno poi per strada mi ha detto, ma l'hai anche cantato tu le canzoni? Ho fatto, ma che vi dice il cervello? Sì, suonavo anche il piano. Esatto, Giorgia nella mia mente, in italiano. Che cosa cantavo? Per cui ti sei trovato con lui a accompagnare, l'emozione è gigantesca. Emozione incredibile, ovviamente, sia a livello umano, ma poi quando abbiamo iniziato le prove, sai, sul palco quando c'hai le casse spia, no? I monitor, sì, davanti, e sentire la voce di Ray Charles con quel tipico suono di cassa spia, esatto, e sentire il pianoforte suonato da lui su quelle spie, ma e poi vederlo, e vederlo perché stava lì, e vederlo stava lì, ma arrivava più a sentirlo perché mi ritornava su all'istante tutti i dischi, tutte le ore passate in camera mia ad ascoltare i dischi suoi. Quella volta ho avuto un attimo, quando è iniziato, stava per iniziare il pezzo, ho avuto un 30 secondi di blocco, di blocco totale, sono andato in stallo. E esatto, dopodiché ho fatto così, sei tornato via, e ho lì, suonato, o esplodi, bene, implodi, siamo divertiti, esatto. Hai avuto modo poi di frequentarlo dietro le quinte? Un pochino, sì, ci siamo fumati una sigaretta, ci siamo fatti due chiacchiere. Beh, lui poi, insomma, ho visto dal film che non sapevo se ha fatto qualsiasi cosa, per cui... Sì, fumava una sigaretta dopo l'altra. Anche in calcinaccio, cioè, credo che sia fatto quindi, una vita... Beh, sì, ha fatto una vita, diciamo, bella. Non si è fatto manca nulla, nulla. E abbiamo fumato una sigaretta, chiacchierato, oh, raccontato, Dio, un po' di aneddoti suoi. I never... I breathe a lot. Sì, era molto... era molto lui, era col molto Reisaz, con un'addizione ancora del sud della, dell'America. Infatti la difficoltà di doppiare quel film, proprio parlando di lui, era questa S così forzata, questo tartaglio, queste cose complicatissime. Io, un'addizione veramente quell'inglese difficile. Quell'inglese lì è forse l'inglese, no, io invece è l'inglese che capisco meglio, sì, l'americano, quello lì, perché ti ho detto che suonavo con questa... dobbiamo andare in pubblicità, vabbè, stiamo parlando di Reisaz, scusa, insomma, mi l'ho imparato distrate. Con la gente del sud di quel periodo lì, quindi quello è un inglese che io capisco, che molto capisci. Bene, sì. Bellissimo, a tra pochissimo insieme ad Alex Britti. Sanatomi. Eccoci di ritorno, le 15 in punto, una manciata di secondi. Alex Britti e la sua immancabile chitarra. Ormai è proprio la tua prima. Nessuna donna deve essere gelosa delle tue chitarre, no. Britti. No, dicevo, perché sennò non si riesce ad andare d'accordo. No, d'accordo è proprio la parola giusta. Non si riesce ad andare d'accordo, non è male. Ma tutte le storie, poi a parte i musicisti, però in tutte le storie, quando uno cerca di cambiare l'altro, no, non funziona mai. Mai. Perché uno inizia, ama, ti amo così come sei. Poi dopo quel così come sei pesa molto di più, non piace più. Cos'è così come sei? Guarda, quando fai quello che dico mia moglie all'inizio, 9 anni fa, io essendo un doppiatore uso la voce eccetera, una voce piacevole, quant'altro, mia moglie ha che bella voce eccetera, adesso quello che mi dice, ah, per favore abbassa i toni, capito? Abbassa i toni. Questo succede, l'abitudine ci sarà, e anche a te te taglierà le corde della chitarra quanto prima. In nome dell'amore e volume 2 ci siamo sentiti speciali, però io voglio fare un passo indietro. Abbiamo parlato di questo bellissimo duetto con Reisaz, che esiste, per cui possiamo controllarlo, potete... Su YouTube. Esatto, potete goderne. A me, quando lo dico, mi sembra ancora di... Tu sei analogico. La cosa che fa ridere, dice, no, ma cerco, guarda, scrivi Reisaz Alex Britti. Certo. Trovi la cosa. Mi sembra la barzelletta di quello, chi è quello vicino vestito del bianco, vicino esatto. A Mario, sì. Mi sembra un po' una presa in giro, invece c'è davvero, mi stupisco anch'io. Io pure scrivo sempre Pinozzegno De Niro, esce sempre, ma che cazzo stai a dire su YouTube, cioè non è vero, cioè non c'è niente. Mi fai sentire un Britti dannata invece, mi fai sentire un Oggi sono io, un momento, un minutino, eh? E dai. So perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente. Sei tu, oggi sei tu. Oggi sono oggi io. Sei sì, tu. Oggi sono io. Molto. Oggi ti riconosci, ti ogni guardi, giorno di più, ogni mese guardi, di più, ogni esatto. Anno sempre di più e sempre meglio. C'è stato un momento in cui non ti riconoscevi, Britti? C'è stato un momento di confusione, ma più legato alla curiosità. A livello di quando uno arrivi a un certo livello di vita, che dici, ok, mo voglio vedere cosa c'è oltre o cosa c'è di altro. E quindi uno per curiosità abbandonando qualcosa di... oppure non ti sei perdonato qualcosa che hai fatto in quel momento? No, no, no, no. Hai scelto sono di stato, deviare. Sono stato bene, perché poi appunto uno arrivi che poi tutto quello che fai lo hai scelto, ed è certo. importante, perché tu l'hai sempre scelto. Sì. Ho sempre abbastanza scelto quello Nessuno, che faccio. È vero, anche quando ho ottenuto, musicalmente, anche quando hai ottenuto il tuo successo, cioè, quando hai ottenuto il mio successo, ok, ho ottenuto questo, adesso non mi andava di stare in una situazione da che devo timbrare il cartellino, perché sennò diventa routine, e poi c'è la noia, e quindi è la morte dell'arte. Esatto. E allora ho provato a fare qualcosa di diverso, sempre facendo il cantante, però scrivendo in modo completamente diverso dai primi anni, arrangiando completamente diverso. Prima ti prendi in contropiede da solo, da super elettronico. Esatto, da super elettronico dei primi dischi, poi sono diventato sempre più acustico fino a questo che abbiamo ascoltato. Sì, un Unplugged è bellissimo. Unplugged, e poi ho registrato anche il disco dopo in acustico, registrato dal vivo con musicisti internazionali. Sì, ti fai la tournée quando la gente si aspetta, casa discografica si aspetta il tuo successo dal vivo dopo Sanremo, tu giri con due o tre persone e suoni solo musica. Ad esempio, quando ho fatto 7000 caffè a Sanremo, l'anno dopo, cioè l'estate che è venuta a seguire. Me lo metti 7000 caffè mentre parliamo? Tutti. Che ci tira su anche. Quello era il momento. Ecco. Che uno chiama i musicisti americani e ti fai il mega tour. Esatto. E invece io avevo lo stimolo di suonare da solo, per ritornare un po' all'essenza, a quello che ero, al perché ero diventato quello che ero diventato, insomma, senza effetti speciali, ma perché so suonare la chitarra. E allora in quel momento sono andato in tour da solo, chitarra, voce e piede, col microfono per terra che batteva e la pedaliera dove mi registravo un po' e facevo un po' di circo. Contente con la chitarra discografica, sì. Inizialmente no, ovviamente certo. Non tanto, però tra l'altro imponendo anche tutta la promozione, non volevo fare playback, quindi ho fatto il diavolo a quattro, ho fatto un casino, non ho fatto mai playback, sempre live, sono è riuscito vero. A imporre il live anche al Festival Bar, all'epoca non erano attrezzati, hanno preso un mixer apposta per me per farmi fare la canzone dal vivo. E non era fatto di essere snob, questo ovviamente non è questo, questo è perché era proprio perché volevo ridurre tutto ai minimi termini, esatto, e volevo dimostrare che un uomo da solo con una chitarra sul palco può fare spettacolo. Assolutamente sì. E non soltanto nei club di nicchia davanti a 30 persone. Per cui tu sei sempre stato te. Io l'ho sempre riconosciuto. Sì. Mi sono come sempre persona, divertito, come sono uomo. Sempre sfidato. È lì che parlo di curiosità, no? Mi piace ogni volta rimettermi in ballo, di testarmi. E non solo una volta, ma tutta la vita. Cioè, stai parafrasando da una canzone all'altra, bella. Perché puoi raccontare la tua vita vedendo questa, raccontandola proprio attraverso i titoli delle tue canzoni, ma soprattutto come l'hai suonate. Perché ecco, vedi, il tuo percorso hai accompagnato chiunque, e certo non a casa, non al cinema, l'hai accompagnati ovunque. Un altro bellissimo ricordo che ho particolarmente, io e forse qualcun altro, è con Pino Daniele. Con Pino Daniele, certamente. Pino è stato, anche perché lui è un grandissimo, è stato un bel incontro, un grande chitarrista, uno stile completamente, tutti e due amiamo il blues, però uno stile completamente diverso chitarristicamente. Sì, quello è vero. Lui più studioso, io più selvaggio, quindi poi ci siamo trovati e ci siamo divertiti. Lui studiava divertiti. Veramente tante ore, tu ti diverti con la chitarra. No, io suono. Tu suoni, esatto. Io suono, lui studio, studiava. Lo so. Ma studiava mettendo i dischi di Django Reinhardt, le cose, metronomo e andava, stava lì, ma ore, pazzesco. Questo senza lui toglie. Un giorno venne con Pat Metini a casa, ero testimone di questa situazione, e lui ha fatto, che suoniamo, che dobbiamo fare il tour? Ho fatto, beh, provate a fare l'Estra in Home, che è un pezzo dove c'è voce e chitarra, e fecero questo pezzo e non c'erano ancora né telefonini né niente, io non sapevo come urlare questa storia. Bello, di sentire Palmetini. Però me voglio sentire un pezzettino di Pino. Ce l'abbiamo Pino e Alex insieme con Io per lei? Eccoli qua, tutti e due. Musica per trovare la carica, sai che mi piaci con quella gonna stretta, quando muovi il fisico in un ritmo isterico che fa Se tu il mio destino, allora portami via. la solitudine. Sembra che mastichi le nuvole e poi non rompi mai le scatole. Sai che mi piace quella faccia da furbetta, un sorriso di plastica mentre fai la ginnastica. Stavamo ricordando il grandissimo Pino. Grandissimo Pino, la sua chitarra. Questo sei tu che suona la chitarra, però, sì, questo c'è una testimonianza anche di questo, oltre che con Ray Charles, eccetera. Il primo successo, quando è che hai sterzato? Lo Sliding Doors, qual è stato? Proprio è stato l'estate del 98. Eccoci. L'estate del 98 ero in crisi, nel senso avevo fatto questa canzone, avevo provato l'anno prima a fare un Sanremo Giovani, non era successo nulla e quindi ovviamente poi il mio lavoro, insomma, più remunerativo era su in Olanda, quindi dovevo tornare su, però se stavo su non potevo fare le cose in Italia. Sì, certo. Quindi ero un po' combattuto, sta per uscire solo una volta tutta la vita, a maggio del 98. E io dovevo ripartire, dovevo raggiungere il resto della band in Grecia. All'inizio in Grecia, così era più vicino. Traghettavo, stavo una settimana di concerti in Grecia e poi con loro piano piano rientravamo. E ancora dovevo uscire solo una volta. Mentre invece mi arriva la telefonata di Irene Grandi, che cercava un chitarrista blues, mi ha chiamato se andassi in tour con lei. E quindi ho detto ok, sì, accetto, ho avvertito la band olandese. E ho mandato un altro amico a suonare la chitarra, io almeno avevo l'opportunità di rimanere in Italia. E caldeggiare anche il pezzo, perché poi dovevo stare in giro, magari andare nelle radio a far sentire la canzone. Certo. E approfittando di stare in tour con Irene, ovviamente ero già in giro per l'Italia, quindi dove stavo poi la mattina, nonostante finissimo tardi, magari di solito si ripartiva sempre verso l'una, le due di pomeriggio, io invece magari mi mettevo la sveglia alle 8, dormivo, Britti! Niente, andavo, no, ero un temerario, e andavo a farmi le radio, 7000 caffè via, Veneto, sì. E poi ripartivo con le macchine insieme agli altri. Ed è partito. E durante l'estate, mentre sto facendo questo tour di Irene Grandi, in realtà. Esatto. Ha iniziato a andare forte solo una volta, a entrare in classifica. E ad agosto sono arrivato alto in classifica, al numero 2. Te l'ha fatta suonare Irene in tournée? Sì, è capitato, sì. La suonavo sempre, perché poi gli chiesi di aprire il concerto. Quindi prima del concerto facevo due o tre canzoni da solo. E poi rimanevo sul palco, cambiavo chitarra. E suonavo con lei. Tanto chitarra non ce n'hai mai avuto. Ce la sentiamo un momentino? Poi andiamo sull'ultimo album. C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, e andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, o forse erano due, c'era una mucca, un asinello, un bue, c'era una notte con una sola stella, però era grande, luminosa e bella, e se ci va magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo sguazzare, e poi nuotare e fare il morta galla, controlleremo se la luna è ancora gialla, sì. Mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi, e mentre il cielo si schiarisce, noi guarderemo stanotte che finisce. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore, solo una volta tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore, in questa notte ancora da capire, era un peccato che dovrà finire. Ed eccolo, stavamo parlando qui con Mauro Meconi, che due messicani, ha cantato anche in messicano questo pezzo. Questo pezzo non ha fatto, soltanto, ma per fortuna, io non volo, però vedi, le canzoni fanno il giro quello cantano gli altri, sì, ma la canzone c'è una versione in spagnolo, è una versione messicana, ce n'è anche una versione in croato. che bello. Si intitola Amore mio. Ah certo, proprio ha mantenuto. Oggi sono ha mantenuto io. Solo Amore mio. Fa però in croata, tutta però in croata. Ma quella messicana si trova? Se la cerchiamo. Quella messicana non lo Rachele so, sicuramente cerca quella spagnola. Immediatamente si trova, ecco, adesso noi dobbiamo andare in pubblicità, ma ancora rimaniamo con te, ce l'hai un altro po' di tempo, sì, un quarto d'ora. Sì, sì. Beh, tutto, fino a stasera alle 8 devo andare via. Sì, alle 8 pure noi da 3 ore. Siamo in due, ha detto Valerio dall'altra parte. Va bene. Un appuntamento importante. Grazie, benissimo, assolutamente. A tra pochissimo, Voice Anatomy, l'amico di tutti, Alex Britti, a tra poco. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, Voice Anatomy. C'è un po' di movimento in studio perché ci hanno raggiunto anche gli altri ospiti che saranno più tardi. Però, siccome stiamo parlando di un gruppo internazionale forte, non conosciuti, ma bravissimi, Sebastian Torres. Torres, a me piace questa S così, Sebastian. Torres invece è normale. È abbastanza comune. Di dove sei, Sebastian? Dal Messico. Tu sei messicano? Messicano proprio. Messicano. E The Italian Orchestra, che è di là, che sono 200 persone. Però, però ho detto, tutti italiani. Tutti italiani, però tu sei messicano. E oggi proprio siamo intonati perché dopo c'è Frida Kahlo, che parleremo di Frida Kahlo con Alessia Navarro, per cui. E poi c'è Britti. Cioè, sì. No, ragazzi, che potete fare? Che può succedere dalla tua voce e dalla sua chitarra? Beh, a richiesta, lui è come un jukebox, non c'è problema. Facciamo la bamba che mi viene subito. Ma scansa il telefono perché. No. Mettilo in versione aerea. C'è una tonalità preferita? Certo, ecco il caffè, grazie Rachele. Grazie mille. Qualcosa non troppo alto perché non è che... Proviamo, vai. Vai, ti seguo tu. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia pa mi patia, y arriba, ahí arriba y arriba, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero. Ah, neanche io. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Bamba, bamba. Una versione chill out è questa. Bamba, bamba. Va bene, sempre, va bene. Era tanto per cominciare a creare un po' d'osmosi tra i nostri ospiti. Puoi stare qui mentre continuiamo a parlare. Grazie. Con... il bravo Britti, che se sentite non sono 7000 caffè, ma è un caffè. È uno Britti solo. Invece mi voglio ascoltare un altro brano di questo bellissimo second, come tutti i film di successo che si rispettano, cioè il number esatto, two. Il mio Rocky 2. Esatto, il tuo Rocky 2, il nome dell'amore 2. Dopo speciale qual è il pezzo che preferisci? C'è una canzone particolare, perché questo è un disco molto rocchettaro, un disco molto allegro, solare. Ma tu sei così, eh? Io sono così, sì, sì, infatti. Tu sei solare. E questa canzone forse è la più... l'unica seria, l'unica canzone seria. Molto seria. E come si intitola? Si intitola Stringimi forte amore. No, non guardarmi così negli occhi e dirmi una no, cosa già mettergi... No, è un errore, scusa. Esatto. Non l'ho proprio inteso. Guarda nel vuoto quando dici una cosa del genere. Allora, Stringimi forte amore, tratto da Il nome dell'amore, volume 2. Ascoltiamola. Ti ho incontrata in un giorno di maggio, ti ho incontrata e mi basta così. Eri bella come la luna, come una stella, la mia stella. In mezzo alle carte di oggi ho trovato una semplicità, perduta da troppi anni e adesso ritrovata qua. Oggi forse ti parlo davvero, oggi che ci sei solo tu. In un attimo senza respiro vorrei darti di più. Stringimi forte amore, perché stanotte ho bisogno di te. Stringimi adesso e per sempre, perché tu sai vivere. Un'altalena in un grande palazzo, una sorgente tra mare e stelle. adesso che tra noi è più grande, ci capiamo di più. E non è sempre la stessa canzone, non è sempre la stessa età, forse è solo semplice amore e benvenuta realtà. Stringimi forte amore, perché stanotte ho bisogno di te. Stringimi adesso e per sempre, perché tu sai vivere. Stringimi senza pensare, perché stanotte ne ho bisogno di più. Stringimi forte amore, perché io ci sarò ogni volta che avrai bisogno di me. Io ci sarò ogni volta che avrai bisogno di me. Stringimi senza pensare, perché stanotte ne ho bisogno. Forte amore, perché io ci sarò ogni volta che avrai bisogno di me. Forte amore, era Alex Britti che continua live unplugged. No, vabbè. Capito Sebastian come sta il nostro Britti? Dovresti continuarla. Vai, stringimi forte amore, vai. Stringimi forte amore. Questo è il vero live. Che stanotte ho bisogno di te. Stringimi adesso e per sempre, perché tu sai vivere. Yeah. Eccolo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Eccolo, ce l'abbiamo. Che bello, Britti. Poi c'è. L'altro giorno ho sentito un amico comune, bravissimo regista cinematografico, Ivano De Matteo. Ah, come no? Che ti ha fatto la regia di un bellissimo pezzo, poi in anticipo un po' sui tempi brutti del femminicidio e quant'altro. Il video di Perché, perché? Poi avevi fatto un film, io mi ricordo che venni anche alla prima. Sì, no, lo aiutai. L'ultimo stadio. L'ultimo stadio, lo aiutai sì. Alla riuscita, perché sono molto amico con Ivano e per cui, essendo la stessa fede calcistica, siamo conosciuti in curva, ecco, un'altra curva. Certo. Quella dalla parte opposta dove frequenti tu. Molto opposta. È molto, tantissimo, proprio una della parte. Ma Ivano è un amico, Ivano, a parte che facciamo gli artisti, ma è un amico, perché sì, unisce molto. Eravamo un pomeriggio al San Callisto insieme per tanti anni, tutti gli anni che io vivevo Ivano lì. Persona veramente speciale, ma provo anche a chiamarlo, sai, per telefono, insomma, te lo faccio salutare. Sì, è uno sempre carino, nonostante poi appunto, perché poi in Trastevere ci stanno delle faide calcistiche. Beh, no? Capirai, mentre però... invece è importante quando poi prevale sempre l'arte, quello che fai e l'amicizia, insomma. Assolutamente, poi lui è diventato veramente un grandissimo regista e questo video era Perché, si intitolava, mi ricordo, bellissimo, bellissimo. Poi c'è una bella tournée adesso, comincerai, vero? Sono io tutta l'estate in giro. Qualche data ce l'ho, perché il 31 luglio e 1 agosto sei all'Auditorium a Roma. All'Auditorium facciamo una cosa alla molto cavea, particolare. Alla Cavea? Alla Cavea, sì. Alla Cavea. Facciamo una cosa particolare. Che facciamo? Perché, allora, ci siamo, a proposito di amici, certo. Io e Max Gazzè, che siamo amici da tanti anni, abbiamo suonato insieme per tanti anni, negli anni 90, nonché eravamo anche protagonisti delle nottate romane in giro a fare jam session dappertutto. Quando ancora potevi, insomma. Sì, quando si suonava. Quando si suonava, ecco, sottolineo. Visto che poi, insomma, ognuno ha la sua vita, la sua carriera, la sua strada, le strade certo. Un po' si dividono, poi ogni tanto si rincontrano, ci incontriamo a casa, si suona insieme, si sta bene. Però suonare insieme sul palco è più bello perché certo, hai più strumenti, più cose a disposizione. Avevamo i concerti vicini, sì, e li abbiamo avvicinati ancora di più di un paio di giorni, e li facciamo insieme. Ah, per cui siete insieme tu e Max. Quindi il 31 e l'1, il 31 luglio e il 1 agosto, insieme portiamo tutte e due le band, sia la mia che la sua, montiamo tutti gli strumenti, no, di tutte e due. Sì, sì, giuro, ma è una cosa da folli. E suonate insieme e finiamo insieme. Tu accompagni lui nei suoi pezzi, lui accompagna te nei tuoi. Me, li cantiamo. Poi non è che ci siamo detti così tanto, no, insomma, no, tanto conosciamo i repertori. Ah, per però saliamo insieme. Proverete qualcosina? Poco? Penso di sì, su Skype. Conoscendoti no. Esatto, su Skype, mi sembra il modo migliore per presentare due ci concerti. Ci piace improvvisare, ci piace far casino, ogni volta lo facciamo. Per cui proverete anche insieme, la pubblicità sarà insieme, Max e Alex? Sì, sì, siamo una Mister cosa... X. Quando giravamo negli anni 90, 95, quel periodo lì, noi dicevamo sempre che siamo in missione per conto di Dio. Ecco, vi dicevamo brothers, sempre, certo. Esatto. E quindi ci siamo dati questo nome, e quella serata sarà, quelle due serate saranno in missione per conto di Dio. Bellissimo. Quindi saranno fondamentalmente come se fanno due amici, fanno una festa aperta al pubblico. Meno male che non è il periodo dei Beatles, quando dissero siamo più famosi di Gesù, è successo il patatrack, lì è successo un bel casino. Certo. Esatto. Invece voi siete in missione per conto di Dio. Poi hanno messo una toppa, diciamo, così, sì, dopo diciamo, sì, hanno cercato di cucire. Ci sono riusciti poco. Poco. Anche che ci credevano davvero. E forse in quel momento lo erano. In quel momento lo però erano. È anche una frase molto ironica che sì, la disse John Lennon. Non era il periodo di ironia, soprattutto l'America. No, infatti no. Bruciarono i loro dischi. Era molto trampista all'epoca. Però era provocatoria. Era provocatoria come era provocatorio John Lennon. Noi non siamo così provocatori. Io chiudo ogni tanto noi siamo certi molto miei... più sciasi. Noi gli piace soltanto divertirci, star bene e far bella musica. Anch'io chiudo i miei spettacoli ogni tanto sono andando a gente dicendo sono stanco di rappresentare, di essere sempre solo il sex symbol per questo paese. Voglio dimostrare di essere anche qualcos'altro. E questo sorriso è moltiplicato per gli spettatori che ci sono. A tra pochissimo con Alex Britti. A tra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, 15:33 primi e 50 secondi. Alex Britti ancora al mio fianco, però dal Messico. Rimaniamo in Messico. Perché dove andiamo? Andiamo da Alessia Navarro, che è capo progetto di questa bellissima trasmissione, che l'ha portata anche a vincere l'altro anno il premio Ennio Flaiano come miglior trasmissione radiofonica dell'anno, per cui grande soddisfazione. Però lei debutta martedì al Teatro Quirino di Roma dal 16 al 21 con Frida Kahlo, Ritratto di una donna. Un'avventura bellissima, cominciata già un paio di stagioni fa all'Eliseo, continuata l'altro anno e non smette più. Beh, questo è il terzo anno che riproponiamo Frida Kahlo, quest'anno al Teatro Quirino di Roma, uno dei teatri più belli d'Italia, quindi non ti dico la responsabilità che mi sento sulle spalle e l'emozione che ho di riproporre questo spettacolo. Che poi è un spettacolo non facile, nel senso che Frida Kahlo, non so se hai visto il film, Alex, che è una donna che rappresenta tutte le donne. Io non la conoscevo, ovviamente sono riuscito ad avvicinarmi a questa grande artista e ho scoperto che nel mondo c'è fanatismo intorno a Frida Kahlo, per cui costruire uno spettacolo che raccontasse Frida Kahlo in maniera didascalica non era una cosa né facile né bella né troppo retorica. Allora Alessandro Prete, il regista... Ma infatti il punto di forza di questo spettacolo credo sia proprio questo, non descrivere in maniera didascalica la vita di Frida Kahlo. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo strutturato lo spettacolo in maniera tale che si potesse verificare una sorta di immersione nella vita, nell'arte di Frida, ripercorrendola attraverso i suoi quadri, che in realtà sono la sua vita, perché lei ha dipinto in maniera fortemente autobiografica. Per cui raccontate lo spettacolo, c'è anche una danzatrice straordinaria. Sì, ci sono, adesso ci arriviamo al cast che è grandioso, nel senso che io sono accompagnata da un bravissimo attore che è Gianluca Gobbi, che non ha bisogno di presentazioni, è un attore bravissimo e attivo sia teatralmente ma anche nelle cinema, fiction, televisione. Un'altra bravissima attrice che è Giulia Santilli. E poi c'è questa danzatrice d'eccezione che lavora a livello proprio internazionale. In questo momento lei sta facendo il Gobbo di Notre Dame a Parigi con il cast francese. E già il secondo anno che mi accompagna in questo viaggio e la ritroveremo con noi, Giulia Barbone. E Alessandro Prete. Alessandro la Prete è la regia, una persona con cui ho il piacere di lavorare già da diversi anni e con il quale abbiamo messo su degli spettacoli abbastanza importanti. Quante donne rappresenta Frida Kahlo e quante donne ne rappresenti tu durante lo spettacolo? Ecco, Frida Kahlo, partiamo da lei, che lei veramente ha vissuto una vita che potrebbero essere mille vite insieme. Riassumila in un minuto la vita di Frida Kahlo, dall'inizio. La riassumo in un minuto. Lei è una donna figlia della rivoluzione, ha addirittura anticipato la sua data di nascita al 1900, no, posticipato, perché lei era del 1907, l'ha posticipata al 1910, che è l'anno della rivoluzione messicana, proprio perché voleva essere figlia di una rivoluzione. Questo essere figlia di una rivoluzione, questa idea, se la ritroviamo sulla sua pelle, è una donna molto combattiva, molto forte, nonostante le dure prove che la vita le ha riservato. Lei non ha mai perso questo cipiglio, una donna dalle mille pulsioni e dalla personalità incendiaria. E quando cambiò la sua vita? Quando incontrò Diego Rivera? È stato il secondo incidente della sua vita, pensa, lei l'ha sempre menzionato primo, in questo modo. Il primo fu durissimo, un incidente stradale che purtroppo la costretta ad una serie di interventi infiniti fino alla fine degli ultimi giorni della sua vita, e l'ha menomata, ha fatto sì che non potesse avere dei figli. Questo ha contribuito alla perdita, ai 3 aborti che ha avuto, ed è stato il grande incidente. Il secondo incidente su un autobus, diciamo, perché fu durissimo, questa sbarra dell'autobus, si appoggiano le mani, gli entrò dalla schiena e uscì dalla vagina. È stato terribile, violento. Terribile. Migliaia, un sacco di interventi, grande dolore fisico. E poi mi dicevi di Diego Rivera, appunto, è stato il secondo incidente della sua vita, di gran lunga peggiore della prima. Lei lo ha sempre ricordato in questa maniera, perché Diego le ha dato grande amore, grande emozione, grande passione, ma anche grande, grande dolore. Era un traditore seriale. Una gara è stata con lui. Lei riuscì ad andare anche con le donne che erano state con Diego Rivera. Sì, per cui non credo solo per quello. Credo perché lei era una doppia, aveva una doppia personalità. Una donna molto mascolina, giocava con questa ambivalenza personale. E credo che abbia amato delle donne, non soltanto le donne che furono di Diego, ma anche perché amava le donne. Amava la curiosità e quindi ha divorato la vita, qualsiasi prova e qualsiasi esperienza le si proponesse davanti. Che grande uomo, che grande donna, un amore poi eterno con Panson, un amore per Panson. Senti, è Sapo. Fai un pezzettino, so che estrapolare un momento dallo spettacolo. Mi sa che dobbiamo aspettare l'altro blocco perché ho il mio copione di là, quindi poi lo prendo. Ma lo sai a memoria, debutti fra 3 giorni. No, qui sto in ansia di prestazione, quindi senti che ti sta accompagnando in maniera molto. Sì, allora ne approfitto, dai. Ah, te lo ricordi? No, me lo sta portando Rachele. Ah, Rachele, certo, Rachele vai pronta a tutto. Certo, un accompagnamento così tutte le domeniche per radio, senza mettere dischi. Posso anche cantare, eh? No. Navarro, ti conosco artisticamente, tu puoi recitare benissimo. Puoi anche muoverti a passo anche tempo. Che vorresti dire? Con la danza, scusa, ma non cantare. Non canto? No, Navarro, tu non canti. No, quello posso dirlo. Allora adesso mettiamo un sottofondo che è la musica, la colonna sonora di Frida Kahlo, fatta da Stefano Mainetti, che è un bravissimo compositore di colonne sonore, per cui dalla chitarra di Alex Britti passiamo a questo sottofondo. Questo è un momento dove tu interpreti un momento della vita di Frida Kahlo sulla sedia a rotelle e parli della notte. La notte mia è un grande cuore che pulsa. Sono le 3:30 del mattino, ma la notte mia è senza luna. La notte mia ha 2 grandi occhi, grandi, grandi, che guardano fissi una luce grigia che filtra dalle finestre. La notte mia è lunga, lunga, lunga, lunga, lunga, e tesa verso una fine incerta. La notte mia mi precipita nella tua assenza. Allora ti cerco. Cerco il tuo corpo immenso vicino al mio, il tuo respiro, il tuo odore. Ma la notte mia mi risponde col vuoto. La notte mia mi dà freddo e solitudine. Allora cerco un punto di contatto. La tua pelle, dove sei? Dove sei? Mi giro da tutte le parti, il cuscino è umido, la guancia che mi si appiccica, i capelli bagnati contro le tempie. Non è possibile che tu non ci sia, non è possibile. La notte mia ti vorrebbe chiamare. ma la notte mia non ha voce. La notte mia mi scava dentro fino a non sentire più la carne e il sentimento diventa più forte, più acuto, privo della sostanza materiale. La notte mia mi osserva. La notte mia urla e si strappa i veli. La notte mia si scontra con il proprio silenzio. Mi manchi. Mi manchi tanto. Mi mancano le tue parole. Il tuo colore. Eppure sei così brutto. Dico davvero. Ma sai che c'è? Io ti amo. Grande e grosso così come sei. Beh, è emozionante. È un bel momento dove c'è silenzioso l'uomo al tuo fianco che rappresenta poi Diego Rivera, ma rappresenta quell'uomo che ti ha messo sulla sedia a rotelle per un incidente. Sì. Perché raccontare Frida Kahlo attraverso varie donne, anche moderne. Sì, anche la scelta è stata questa. Allora, o raccontare Frida Kahlo in abiti tradizionali dall'inizio alla fine, sono nata, ho fatto, ho vissuto. Era già stato fatto e non era neanche particolarmente interessante. Allora noi ritroviamo Frida con gli abiti tradizionali all'inizio e negli ultimi quadri dello spettacolo. Nel mezzo ci sono tante donne diverse che sono legate a Frida da esperienze comuni, vuoi la menomazione fisica, vuoi l'amore lesbico, vuoi il tradimento, proprio per far capire appunto che Frida è un'icona femminile e ogni donna può avere una scintilla di Frida dentro di sé. Beh, vabbè, bene. Fate rimangiare. Sì, no. Qui ci sono tanti messaggi che ho dimenticato di leggere, di complimenti, parlo di Alex Britti che è stato fino adesso noi e ci sarà ancora un altro po', tanto so che a casa ancora non l'aspetto per un quarto d'ora, 20 minuti tranquillamente. Tanto se non suona, senti, comunque se dai sì. Tempi. È pazzesco. Sì, sì, no, fallo tranquillamente. Alex qui a Torre Spaccata ci hanno dimenticati come i Jalis, che c'entra? Se vieni a suonare in piazzetta qualcuno magari ci annettono la Repubblica del Camerun, vabbè, questo è divertente. Poi complimenti ad Alex, che dita meravigliosi, che suono straordinario. Quando vuoi ti sfido con la chitarra, dice Doti. Qualcuno ti sfida anche, cioè, esce proprio anche le sfide come Bruce Lee per la strada. Doti chi? Doti, no, Doti Battaglia, forse Doti B, attenzione. Attenzione che potrebbe è Dodi. Essere Dodi. Secondo me è Dodi. È Dodi B e Dodi Battaglia. Ah, proviamo a chiamarlo. Rachele, guardami questo numero, senza che lo diciamo, voce alta, di Dodi B. Se è Dodi Battaglia, anche lui, niente male con me. Ci siamo sempre detti di suonare, ma non è mai avvenuto ancora. Però Dodi è un amico, lo incontro spesso, lo saluto e mi piacerebbe fare un duetto, qualcosa insieme. No? Guarda, se lui adesso glielo chiediamo in diretta, senti, poi Wish You Were Here dei Pink Floyd, magari poterlo sentire soltanto almeno l'inizio da Alex Britti. Allora, com'era? Wish You Were Here. No. Eccolo. Abbiamo Gilmour e Waters, tutti e due qui. Vai Alessia, no. No, non gliel'ha fatta. È terribile, te lo giuro, è terribile. Sembrava come il pezzo di In e Out. Non ballare, che lui. Senti qui. Solo perché lei. Però il suo era da brividi, eh. Solo ma era quello. Ma era un'altra solo nota, quello. Gli dai la nota giusta di quel so. Prova a trovare sta nota, dai. Ma dai, perché mi devi umiliare così adesso? Ho creato un cappello bellissimo su Frida, umiliata. Ma sanno che non canterai al Quirino. Sicuramente Alex verrà a vederti, ma non canterai. Noi siamo arrivati alla fine anche di questo blocco, se non erro, vero? E allora rimaniamo qui con questo. Ma vabbè, questa è una variazione blues su Wish You Were Here. Non si può affermare una cosa del genere. Sta scrivendo Gilmour. Sì. Alex Britti, c'è su YouTube, Alex, tranquillo, c'è anche Ray Charles, lo confermano. Beh, Jack Johnson, B.B. King, Alex Britti che risuonano Wish You Were Here di Pink Floyd. A tra pochissimo, amici miei, Voice Anatomy, a tra poco. Voice Anatomy. Eccomi, eccomi qui. 15:48, abbiamo ancora Alex Britti per un altro 10 minuti, 12 minuti e poi tornerà alla quotidianità l'ultimo della sua blocco. L'ultimo blocco, sì, esatto. In nome dell'amore 2. Abbiamo, ci stiamo godendo la Navarro che ci ha raccontato un minimo con un bel brividino un momento dello spettacolo Frida Kahlo al Teatro Quirino dal 16 al 21, mentre tu il 31 luglio e 1 agosto stai dicendo che stai con Max Gazzè in questa avventura, questa session con prove minime ma con minimal, sì. Vabbè, ma fra grandi professionisti si guarda negli occhi, è come se io dovessi improvvisare uno sketch con Ciufoli, insomma non è così, esatto. Non viene abbastanza immediato, non anche credo se che musicalmente facciamo... è difficile, insomma. No. Se sai quello che fai, no? Parliamo lingue comuni, insomma. Penso che vorremmo fare poi, tra l'altro. Per cui si saprà in comunicazione che starete insieme, ecco. Non è una sorpresa. No, si sa. Non credo di fare. Non faremo uno spettacolo per due sere, ma faremo due spettacoli alla fine. Per forza. Improvvisando. Non quanto mi dura questo due... spettacolo? Non lo so. Ce l'abbiamo? Allora, però vediamo un po' chi c'è mezzo. Al telefono, Britti, un attimo. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sono stato interpellato per intervenire. E lei... Spero che non sia una querella, che sia almeno un momento di... L'hai riconosciuto, Britti? Qui c'ho Alex Britti che voglio... non voglio dire il tuo nome, voglio soltanto lui cercare di riconoscerti un attimo. Prova un po' ad intonare tutto, quali song e creature, un attimo così. Pronto? Pronto? Non ti ricordo. Ale, devi è una voce che conosco. La voce conosci. Sì. Fa una sorpresa. Sì, è una voce che conosci, te l'hai nominato poco fa dicendo quanto è bravo, per cui è abitabile. Sei Enzo. Qui. Ecco, okay. Enzo. Ciao Enzo. Ciao Enzo. Ciao Alex. Come stai? Stavi dormendo? No, molto bene. Volevamo soltanto farti un plauso forte perché parlavamo di te durante la pubblicità con Alex. Ehi, grazie. E stavo parlando di un altro pazzo che come te con gli strumenti in mano non si ferma un attimo, è il grande Avitabile. Stavo parlando di questa grande grazie. Vittoria di esatto, questi due bellissimi premi. Sono contento che hai vinto quei due, Donatello, te li meriti proprio. Ehi, grazie. Finalmente un musicista che prende i premi veri. Grazie. Quindi, esatto. Insomma, lui è un grande suonatore di sassofono. Sono molto felice di questo perché poi diciamo ecco che ho avuto l'appoggio di tutti voi musicisti e questa cosa per me è importante perché è un sostegno. Perché e te lo meriti. Sì, grazie. È anche un messaggio diciamo di speranza, no, per tutti, che bisogna credere poi alla fine nei sogni e nelle probabilità in un certo senso. Comunque Alex è inutile dirlo, no? È grande, insomma, cioè non bastano parole. Siete due grandi professionisti, siete persone che amate fortemente il vostro mestiere, lo fate con grande amore e pensate alla musica come espressione di vita. Sicuramente con Alex ci incontreremo a suonare. Io me lo auguro. Me lo auguro. È un onore per prima me. Possibile, figurati. Assolutamente. Fino, chiaramente sarai anche tu in jam session. Sì, no, io vi presento. Enzo, facciamo così, io faccio soltanto la voce all'inizio, magari in coda e quello posso fare. Grazie Enzo, grazie tesoro, ti voglio bene anch'io. Grazie. Ciao Enzo. No, era dovuto. Poi Enzo hai fatto bene. È un caro amico e ci tenevo perché parlate la stessa lingua. Parlavate tu e Max Gazzè che parlate la stessa lingua. Non è difficile quando si incontrano grandi professionisti. No, non ci è mai capitato. Lo incontravo diverse volte perché poi lui è molto amico di Edoardo Bennato. Sì. Che sai che è insomma uno dei miei migliori amici. Quindi ci vediamo. Spesso ci è venuto a trovare, però era sempre disarmato. Non si era mai portato. No, lui adesso quindi... gira con questi strumenti etnici molto real world. Per cui. Bene, si allora accompagna da solo. No, presto. Ma lui è straordinario. Questa, se tu pensi che Music Life, la regia di questo video e di questo doppio album dal vivo con tutti i personaggi di tutto il mondo, è la regia di Jonathan Demme, il regista del Silenzio degli Innocenti, purtroppo scomparso da pochi giorni. Ecco, dobbiamo ringraziare un regista del genere. Se c'è un minimo di testimonianza su questa avventura di abitabile, insomma, dovremmo farlo un po' più in casa certe cose, no? Non scopriamo l'acqua calda ogni tanto che abbiamo lì. Lo so, ogni tanto deve venire qualcuno da fuori a scoprire quello che abbiamo in casa e che magari giudichiamo normale, e che a volte la routine ti fa dimenticare quanto siamo bravi, quanto siete bravi, ma quanto siamo, sono nazionalista in questo. Il 13 agosto poi saltiamo dal primo, sei al Teatro dei Ruderi di Cirella a Cosenza, il 16 agosto all'Anfiteatro Falcone Borsellino a Catania, il 16 settembre a Lanciano in piazza Plebiscito, e ricordiamo questo poi è un concerto aperto a tutti, questo è quello sono soltanto alcuni concerti, teatri affiliati, poi auditorium eccetera. Quanto è importante per un musicista come te la scelta del posto dove la scelta del posto è importantissima, la location è fondamentale, poi per te che insomma la musica è unplugged, è questa, è, ma sì, perché bisogna sentirsi nel posto giusto quando c'è l'occasione. Poi io mi diverto sempre a suonare dovunque suono, però quando suoni in un quando posto, finirà quel momento, finirà pure sto mestiere, insomma. Esatto, ma poi si vede, si percepisce se una passione o meno dal palco. Si sente, non hai smesso di suonare da 1:10. La devo posare questa. No, no, è bellissimo, scherzo. Però ecco, quando per esempio il Teatro di Cirella, che ci ho suonato già diverse volte, è un anfiteatro moderno, però è a Picco sul Mare, una location fantastica, c'è anche una bellissima acustica dentro. Te danno la bella acustica, l'anfiteatro, e te danno il Picco sul Mare, la chitarra, tutto, puoi dormire lì, puoi pure dormire esatto. Lì, vive lì, tu, la tua vita è quella. Tu e il mare, eh? Il mare mi piace tanto. Tu e il mare. Ho un bel rapporto col mare, mi piace vedere, ma il mare intendo proprio il mare, non intendo il mare d'estate, il lettino. No, il mare. Il mare. Il mare, abito vicino al mare, mi piace sempre andarlo a guardare, andarmi a prendere un caffè, a fare una passeggiata, andare a correre ogni tanto la mattina al mare, o a farmi uno spaghetto. Un bel rapporto, e ogni tanto mi sento proprio bisogno. Sono stato carino, non ho parlato di cucina, hai visto? Mi ti sono goduto molto su MasterChef. Sei stato bravo. Ma non sapevo che eri così bravo. Sapevo che la cucina ti rilassa, ti piace, sì, eccetera. Sì. Non sapevo che c'era tutta questa dedizione. Mi piace tanto. Stasera se mi invito a cena, perché ho fatto comincia a invitare pure a cena. È rimasto un minuto prima di andare alla pubblicità, più lunga il nostro GR. Ho imparato dopo 2 anni a dire GR, non più TG, perché abituato alla televisione io ho sempre detto solo giornale TG, giornale radio, com'è? Assolutamente. Ricordo, questo è Il Nome dell'Amore, il volume 2, questo solare, un momento forse il momento speciale, il speciale momento della bello. Tua vita, e sono felicissimo. Tu, Navarro, rimani qui per doppi motivi: uno, perché continuiamo l'intervista, perché due, perché poi passo dall'altra parte. Sei responsabile. Per cui, Alex, grazie davvero. A te, grazie a tutti. Grazie davvero di questa bellissima cosa. Buon proseguimento di avventura con questo Voice Anatomy. Grazie, Alex, anche a te con la tua bella musica. A tra pochissimo, Voice Anatomy, Alessia Navarro, Sebastian Torres e quant'altro. A tra poco. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele da renetta deliziose. Muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane, di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12, su Radio 24. Voice Anatomy. Eccoci, signori miei, bentornati. Sono le 16:06 primi e 41 secondi. Abbiamo salutato Alex Britti, che ci ha tenuto compagnia per più di un'ora, alternandosi con Alessia Navarro, che è al mio fianco, che io ringrazio doppiamente. Uno, per essere stata colei che ha immaginato questa bella trasmissione in tempi non sospetti, arricchendola di grande personalità, sì, come attrice, ma soprattutto come autrice, trovando l'idea, perché sembrava una trasmissione destinata ad andare a chiudersi in fretta, insomma, di voce, cosa ne vuoi parlare, gli attori, i doppiatori, poi finisce, invece no. In realtà c'è un mondo che gira mondo. Attorno alla voce, quindi sia da un punto di vista più tecnico, professionale, che da un punto di vista artistico, infinito. E adesso è la tua voce, quella che fa da padrona da martedì 16 fino a 21 al Teatro Quirino di Roma. Con questo Frida Kahlo, ritratto di una donna, prima ci ha regalato un bellissimo momento e qualcuno l'ha anche sottolineato in maniera esaltante, ed è lo spettacolo sicuramente meglio di quel momento, che è stato un momento sì emotivamente alto, sì, ma è, lo spettacolo credo che sia uno dei momenti più intimi dello spettacolo, in cui lei si confronta con se stessa e si mette un pochino a nudo, parlando anche all'uomo che ama. La cosa bella è che è veramente ricco da un punto di vista tecnico, artistico, multimediale, perché c'è... Sì, è uno spettacolo a 360 gradi, non poteva essere altrimenti, perché Frida è imprescindibile dall'arte, e quindi abbiamo messo all'interno dello spettacolo sia un momento visivo, che è caratterizzato appunto dalle proiezioni dei suoi stessi dipinti che prendono vita nel momento in cui si realizza la scena sul palco. E poi c'è anche un momento inedito alla fine di Frida Kahlo, proprio infilmato, sì, insieme a te, molto emozionante. Sì, e poi abbiamo anche la musica, un tappeto musicale bellissimo, costante, realizzato dal maestro Stefano Menetti, e la danza, insomma, la prosa, c'è veramente tutto. Questo era il tuo sogno, intraprendere questo percorso? E da bambina come immaginavi questo futuro, il tuo futuro? Il perché mio parliamo futuro? Lì, conosciamoti pure un po'. Tu sei nata a Cori, non tanti anni fa. Nel 79, diciamo. Quasi una quarantina d'anni fa. Ma dai! Quasi, non ancora, quasi. Per cui io ho una domanda anche che ti ho fatto privatamente. Cioè, nascere a Roma, bene o male, respiri già un'aria artisticamente e professionalmente a 360 gradi. C'è tutto, no? Puoi scegliere tutto. A Cori è un piccolo paese dell'entroterra bellissimo, laziale, bellissimo, insomma, più antico di Roma. Ho scoperto anche questo. Però... una ragazza. Sì, non c'era un fermento artistico, esatto, molto evidente. Ecco. E come ti è saltato in mente? Non lo so, ero una bambina molto curiosa. E... oggi è la giornata della curiosità, che Alex Britti, sì, curioso. Sì, sì. Anche l'amico che avremo tra un po', Sebastian Torres. Molto curiosa, mi annoiavo facilmente, mi annoio facilmente anche adesso, quindi ho sempre bisogno. Spero non in questo momento. No, ho sempre bisogno di cose nuove, di indaffararmi in più cose diverse. E devo dire che sì, ero una bimbetta curiosa, quindi io inizialmente l'unica cosa che c'era, che frequentavo nel mio piccolo paese, era la biblioteca comunale, quindi io me ne andavo lì, leggevo un'infinità di libri, ma sin da piccolina, quindi quello era il mio rifugio iniziale. Da lì la fantasia ha cominciato a prendere vita, corpo. E sei venuta presto a Roma? Sono venuta presto a Roma. Ti sei laureata? Sì, perché oltre ad essere una grande appassionata già di recitazione, fin da piccola, perché questo sogno era sempre era chiaro fin dall'inizio, però ero anche un amante dei viaggi. Volevo essere anche una viaggiatrice. Laurea in antropologia. E quindi mi sono laureata in antropologia. Messicanista. Per cui Frida. E Frida io l'ho conosciuta più di una quindicina d'anni fa durante delle ricerche che all'epoca feci per l'università. E gli studi accademici e teatrali sono andati di pari passo con quelli antropologici. In Messico mi sono incontrata con questa personalità immensa, immensa di Frida Kahlo, e da lì ho detto: però io la devo portare sulla scena, sarà il mio sogno, lo spettacolo della mia vita. E poi bisogna sottolineare il fatto che questo spettacolo è stato l'unico abbracciato dall'ambasciata messicana. Sì, è patrocinato dall'ambasciata messicana. Per cui i messicani che riconoscono in te, in questo percorso artistico, la vera Frida Kahlo, è una bella soddisfazione. Quando io parlo di responsabilità è veramente me la sento grande, me la sento impellente sulle spalle. Responsabilità dovuta anche al fatto che io sto portando in scena una persona realmente esistita, quindi mi sento un rispetto nei confronti di quello che faccio, di quello che dico e di come approccio al personaggio che è sempre soprattutto presente, in un momento storico dove la gente può andare a vedere realmente chi era, chi è stata, sì, Frida Kahlo, sì, per cui sì. Bisogna stare attenti anche a questo. Adesso c'è anche in parallelo un'altra mostra. Tu hai avuto anche, fra virgolette, una fortuna di intraprendere il percorso su Frida Kahlo 3 anni fa all'Eliseo, mentre per la prima volta in Italia, sì, approdavano i dipinti di Frida Kahlo alle Scuderie del Quirinale. Sì, una bellissima fatalità. È stata una joint venture straordinaria. Vi siete fatti compagnia a vicenda. Vi Assolutamente. Siete accompagnati. No, è bello. Me la rimetti sottofondo la musica di Frida Kahlo, Valerio? Ti dispiace che questo è il tema? Tema che è bellissimo, variato, ovviamente pieno di variazioni, anche una cantante turca che canta il tema, è veramente emozionante. E tu sei contenta? Io sono molto contenta, sì, sono molto molto molto contenta. Te la senti vicino, Frida? Caratterialmente? Sì. Sì, devo dire che ho dei punti comuni con lei. Sono una persona molto, molto istintiva, molto... C'è una piccola scintilla, e ho dei voli mentali che si prestano ad avvicinarsi appunto alla, Walter qui alla ci testa fa di Frida. I complimenti ti fai, i complimenti in bocca al lupo. Grazie. Da quello che sento c'è un bel seguito, una bella idea, per almeno altri 20 anni ci auguro di stare in onda. Beh, grazie Walter, speriamo di averci la forza. Fra 20 anni Alessia Navarro è ancora giovane, Pino Insegno non so se riconoscerà il microfono da un bastone, ma comunque cerchiamo di andare avanti. E allora cosa ti auguri in questa settimana bellissima, uno dei teatri più belli d'Italia, che ti ha dato questo asilo politico? Asilo mi artistico. Mi auguro di non è una scorciatoia, non è un talent. Delle emozioni. No, non è un talent. Insomma, veramente ci ho impiegato 16 anni per fare questo spettacolo. E di gavetta ne ho fatta, di lavoretti ne ho fatti, di giornali venduti ai semafori. Fatto. Ho fatto un po' di cose nella mia vita. Guardare quella Alessia. Mi emoziono tantissimo. E sì, mi commuovo perché ci ho messo veramente un po' tanta fatica e tanto amore. Ecco, per voi che studiate, che ascoltate la voce, avete riconosciuto la verità e la commozione reale attraverso la voce di Alessia Navarro e l'amore profondo che mette dentro questo mestiere, perché di amore si tratta. Questo è un mestiere da amare profondamente, da cercare come una vera antropologa, senza cercarlo attraverso scorciatoie che possono impedire soltanto al sogno di realizzarsi. No, perché poi non lasciano servono. Il tempo che trova, nel senso, tu puoi fare uno spettacolo perché hai trovato la scorciatoia giusta in quel momento, qui e ora, ma dopodomani non si scherza, perché il pubblico non si scherza neanche con il teatro, non ci sono scorciatoie per arrivare al Quirino. Si ne accorge la posso gente. Trovare ecco una strada che ti può portare una scorciatoia che ci metti meno per cercare di parcheggiare la macchina meglio, ma l'unica scorciatoia che si può riconoscere per il Quirino è questo. Altrimenti e lì non è neanche facile trovare scorciatoie. No, perché per i permessi è veramente dura. Navarro, resta qui ancora con noi. Adesso sarà il gruppo Sebastian Torres insieme ad Italian Orchestra o Orchestra, che dir si voglia. Te in bocca al lupo, tanta merda come si dice per questo Frida Kahlo. Merda. Al Quirino dal 16 merda. Al 21. Noi ci sentiamo tra pochissimo, restate con noi. Voice Anatomy. Eccoci, stiamo facendo spazio ai nostri amici, e proveremo anche i microfoni, perché siete 4, 5, 6. Sebastian Torres, a questo punto tu devi fare da portavoce e presentare i tuoi amici, i tuoi colleghi. Quasi tutte le marche qui. Tutte le marche. È la Sicilia, è la Sicilia. Non parliamo di brand, ovviamente, marche nel senso marche come regione. Ma è bellissima regione. Allora presentatevi, tu l'unico non delle Marche, ma sei siciliano. Sì, esatto, Gaetano Guardino, Sicilia, sciacca. Si presenta. Io sono Antonio Sciarrillo, d'Ancona. Ditemi cosa suonate però nel gruppo. Sì. Tu? Chitarra, no? Io sono pianoforte. Pianoforte. Davide Uncini alla tromba. Zannini Luca, batteria. Batteria. Io Simone Castracani. Basso e tu Sebastian Torres alla voce. Allora leggo il progetto, è un po' lungo ma lo voglio leggere. Il progetto Sebastian Torres e The Italian Orchestra, o Orchestra come vogliamo pronunciare, all'americana, nasce con l'obiettivo di ripercorrere e reinterpretare il calore della musica popolare ispanica nel rispetto dei canoni e delle vibrazioni tipiche della cultura del Centro America. Ditemi se sbaglio, Un incontro fra culture in musica, l'unione delle sonorità e delle espressioni caratteristiche della musica tradizionale messicana con un ensemble tutta italiana. L'avvolgente voce del tenore messicano Sebastian Torres trova in questa nuova proposta musicale il terreno ideale per esprimere le influenze e gli stili esecutivi tipici del Messico, con il supporto degli arrangiamenti inediti ed originali trascritti dai componenti che abbiamo presentato adesso dell'Italian Orchestra. Il timbro magico della tromba del maestro Davide Uncini e della chitarra di Gaetano Guardino, sapiente accompagnati dal pianoforte di Antonio Sciarrillo e dalla sezione ritmica di Simone Castracani, contrabbasso, e Luca Zannini, batteria, fanno da sfondo al paesaggio sonoro unico ed inconfondibile, dipinto dal carattere unico della voce principale. Insomma, mi sembra una bella presentazione. Però io mi ascolterei una cosa, voi mi avete portato e Valerio già scatta sull'attenti e vorrei

è Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, 16:32 primi e 47 secondi, in compagnia sempre di questo gruppo straordinario. Stavamo parlando della difficoltà di questa multietnicità, di cercare di trovare una strada nuova, e voi ci state riuscendo, sicuramente lo startup con questa voce importante lirica di Sebastian Torres per raccontare il Sud America, soprattutto il Messico, e queste sonorità invece magari più americane, più italiane, più tutto, perché c'è il jazz, c'è il pop, c'è il, anche il lounge, c'è il chill out, quello che vuoi. Ma la musica è bella, diciamo prima, cioè com'è sta musica, bella o brutta? Bella o brutta. Fine. E soprattutto esatto. deve essere semplice e immediata. La semplicità è la cosa più difficile del mondo, perché come quando vedi un attore recitare, un cantante mettere quei suoni in maniera semplice, arriva dritta al cuore. Però c'è una costruzione di base molto importante per rendere naturale, esatto, una cosa. Sembra tutto che nasca per caso. C'è gente, infatti, deve dire: mazza, quanto ve divertite, ma non sanno quanto è faticoso. Cosa c'è dietro? Ma guarda, come la comicità, è il lavoro più serio che c'è, far ridere, costruire uno sketch comico o un pezzo musicale. Sul divertimento ti assicuro che dopo le prime prove che abbiamo fatto in studio, dopo quando cominciavamo a fare i primi arrangiamenti di Amapola, di Triste Camino, quando riascoltavamo eravamo proprio, cioè io personalmente scoppiavo a ridere. Veramente stiamo realizzando una cosa del genere, veramente stiamo suonando questo genere. Perché guardavi Simone quando registravo. Ridevi perché eri felice, eri emozionato. Ero felice, certo, emozionato, allo stesso tempo incredulo di quanto stiamo riuscendo a realizzare quello che volevamo. Antonio, mi pare anche giusto ringraziare lo studio di Francesco Sardella, che è della Pink House, che ci ha fatto dei suoni straordinari. Quelli acusticamente sono la mia tromba è bellissima, la chitarra è tutta naturale, soprattutto ricordiamo tutto naturale. Esatto, sì, non c'è, esatto, non vi siete rifatti, non ci sono ritocchi tutto, chirurgici, tutto acustico grazie a Francesco Sardella. Ecco, lì ci vuole una bella mano come al mix, ci vuole quel microfono sì buono, ma ci vuole la mano dall'altra parte, il tocco è giusto, esatto. No, e comunque è stata la fortuna di tanti, è per stata... esempio tutti i ragazzi che comunque io portavo i brani, no? Brani sconosciuti a tutti. E certo, noi il Messico ci abbiamo abbastanza lontano, pure Alessia Navarro, esatto, ha portato fin da Galo. Si conoscono queste, certo, però non era il punto portare quello che tutti sentono, anzi una cosa diversa. E loro hanno capito subito, le prime domande erano sempre: che racconta sta canzone, che fa? Che bello, mi sembra sta a parlare con un calciatore sudamericano. Siamo abituati, no, a sentire un cantante che parla così, siamo abituati a sentire un calciatore. La cosa romantica è anche tipo due giorni fa facevamo le prove e tipo a Sebastian dicevo: qua Seba, che racconta sto pezzo, perché vogliamo, certo, partire dal testo, perché le parole lo sai anche meglio di me, no? Certo, esprimono grandi emozioni, quindi vogliamo partire dal testo per ricercare la musica, no, giusta. Giusta. Poi specialmente in un genere come chi quello si occupa dell'orchestrazione, dell'arrangiamento, siete tutti insieme, realtà, che alternate? Ognuno di noi dà un suo contributo, alternate la leadership, e la cosa bella è che... apprezzando chi è in quel momento leader, senza dire mo perché l'ha detto, no, la cosa bella per cui un gruppo può vivere, esatto, a lungo, come ci è stato per noi la proprietà ditta, che è ancora viva, non è mai stato, oggi mi sento più forte io, vado io, trascino io, domani tu, senza avere la gelosia di quello che ha messo le trombe, no, è meglio metterci il pianoforte. No. Esattamente così. Questo è importante. Sentiamoci un altro pezzo, ci abbiamo ancora Triste Camino e l'altro. Il chinete è bellissimo. Ma questo lo pronuncerò tu com'è? Il chinete. Non ho capito. El chinete. Che vuol dire il cavaliere. Perché a me, no, quello lo sapevo perfettamente. Non è il chino, non c'era de Coba. Bisogno. Esatto. El chinete. Che Alessia Navarro parla benissimo spagnolo e sudamericano, ma mi è sparita quando mi serviva di più. Va bene. Ascoltiamo El chinete. Va cavalcando un jinete, maga solito en el mundo, y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, ma con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Con su guitarra cantando se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Después se pierde la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. La muerte, c'è sempre sta muerte, sempre in morte, Messico. Sempre. Ma sì, ma è un personaggio positivo la morte in Messico, sì, la rinascita. Dovrebbe essere, no? Anche se è difficile crederlo. Però noi non ci convinci essere. Più di tanto, nel senso che antropologicamente abbiamo una storia un po' diversa quando si parla, sì, di morte. Qui vedi gente che fa sparire le mani da sotto al tavolo, insomma succedono delle cose. Voi c'è invece una festa importante, ma sì, deve essere così, è la rinascita. La rinascita. Anzi, prima si parlava di Frida Kahlo, no? Sì, sì, assolutamente. Alessia Navarro. Una delle tematiche più importanti è quella. È la morte, è presente, sempre, sì, comunque. Forse è il modo per farsela amica in qualche modo. Sì. Ma parliamo di futuro. Parliamo di futuro. Io continuo a consigliarvi di allargare il panorama, anche se questo è bello a livello etico, ma è più difficile. Sì, forse all'estero. All'estero funziona un po' di più. L'hai portato in Messico, sti signori? Sebastian? No, vorrebbe. Ma non ci vuole molto. Adesso sì, dai, Sebastian. Un po' sì. Ma io sono... No, uno prova a fare tutto quello che può. Ah, certo, in Messico tu conoscerai qualcuno. Santa, noi ai market ci abbiamo portato, esatto, nel senso di... Ma Abruzzo riusciamo a farti muovere. Tu, adesso mamma, tocca il Messico. Qualcuno conoscerà. Papà è messicano. Papà è messicano. E conoscerà mamma qualcuno pure da voi, non c'è sta sta cosa. Sì, in realtà ci stiamo lavorando. In realtà ci stiamo lavorando, stiamo lavorando. Anche perché non è il solito mariachi che suona per primi, no, primi, primi. No, anzi, quella è la cosa di cambiarla. È quello portare qualcosa. Anche se quello va benissimo, il mariachi mi piace molto. Cioè, perché quella, sì, è la tradizione. Sì. Vera, sì, sì, sì, però esatto, questo è diverso, una tromba così, esatto, far emergere, questo punto... è Chet Baker. Grazie, grazie. Vabbè, quello è il tuo mito, ne stavamo parlando prima, che è un punto di riferimento bello, perché sì, più Chet di Miles Davis, secondo me sì, perché Chet Baker esprime appunto l'amore per la musica con quel suono dolcissimo, no? Pure quando cantava esprimeva l'amore per l'arte Io sono per la tromba strappata di Minor Ferguson. Io vado sullo strappo, sull'urlo nella tromba. C'è un besame mucho di Dian Shur con Dian Shur e con Minor Ferguson. È grandissimo trombettista. Sì. E tu invece chi mi ti hai, pianoforte mio? Io diciamo con l'estrazione classica. Antonio, vero? Antonio. Sì. Con l'estrazione classica ho studiato sin da quando ero bambino, sin da quando avevo un pianoforte digitale a casa, mi divertiva far finta di suonare con delle... Anche adesso fai la stessa cosa, se ne sono accorti un po' tutti. Assolutamente. Dai, presente le tracce demo che ci sono dei pianoforti digitali, sì. Allora io a 6 anni che mi divertiva far finta di suonare sopra queste... E poi qual è stato il tuo punto di riferimento? Bach. Per me è Bach. Bach. Che non è un dopo barbo. Non è Bach. No. È la base di tutta la musica, da come la conosciamo noi, da come si è sviluppata. Non ci siamo inventati niente, insomma. Non ci siamo inventati niente. Beh, lui ha dato le regole in uno schema matematico, con una precisione, con una capacità. Sono analitica. Mozartiano, amico mio, mi dispiace. Sono mozartiano. Clavicembalo ben temperato. Sì, hai capito? Quello è morto. Che se solo per trascrivere la musica di Mozart ci vogliono 2 vite, quello è morto a 30 anni. Ha fatto a 5 anni, ha già composto la prima sinfonia. Di lui per esempio è splendido la vivacità, sempre la gioia che anche di Mozart. Ah certo, Bach no. No, Bach quando vuole essere drammatico è drammatico. Ammazzalo. E ci riesce. Sebastiano è così, Giovanni Sebastiano quando si impiccia. Certo, chiedere al contrabbasso invece a Simone qual è il punto di riferimento. Dove stai Simone, scusa? T'hanno monitorato fino adesso, ti cercavo dall'altra parte. Contrabbasso, però. Io in realtà punti di riferimento con contrabbasso sono difficili. Ma io in realtà sono un bassista elettrico. Allora andiamo su Nathan East. Sì, però vabbè, il primissimo, vabbè, come tutti, è stato Pastorius. Tanto Pastorius. Però vabbè, ci sono tantissime. Ma come tutti, non è che sia così nominato in giro. Questo è come sì, Demetrio Stratos, non è che tutti conoscono tutto. Sì, beh, io lo sento sempre invece. Vabbè, più vicino. Vabbè. Sì, fra i bassisti sì. Bisogna che la gente sentendo questi nomi, andate su Google, cercate e ascoltate. Bach, vabbè, si trova più facilmente. Però Pastorius, per esempio, che non c'entra niente con quello che corre. No, è un altro che ha fatto un po' di casini nella sua vita. E invece poi abbiamo di là il nostro amico della Sicilia, eh? E esatto. Tu come batterista chi abbiamo? Batterista Luca, scusami. Tu hai la chitarra, Gaetano? Sì, io ho la chitarra. Beh, ce n'hai milioni di riferimenti, sì, c'hai pure Britti di prima. Sì, Britti, un super mito, super mito. Io in realtà ho sempre ascoltato a casa, grazie a mio padre, tanta musica italiana, internazionale, ma soprattutto siciliana, quindi con grandi influenze, no? Abbiamo avuto in Sicilia... Ha bruciato tutte le influenze del mondo lì, cioè... sì, c'è stato di tutto, quindi in realtà... Per cui chi ci abbiamo? Beh, per me in Sicilia Rosa Balistreri. Ecco. E poi in realtà come chitarristi anch'io sono partito dalla classica e quindi Segovia. Sì, Segovia e poi per poi passare a Brian May, un mio grande mito, quindi. Beh, e poi tantissimi altri. E non hai suonato con Simone? Sì, con Simone sì, abbiamo fatto i Queen. Per forza. Luca, invece tu batterista? Allora, qua è una bella lotta perché comunque ci sono moltissime fonti di ispirazione, però diciamo uno che apprezzo in particolare è Stewart Copeland. Stewart Copeland, un altro componente dei Police. Sì, uno particolare che secondo me ha cambiato molto il modo di suonare la batteria. Non picchia come Phil Collins, a me diverte, picchia insomma, Phil Collins. Sì, ma anche pure Stewart è un bel picchiatore. Un bel picchiatore, diciamo, sulla batteria. Signori, a tra poco con i nostri amici, anche con lo sport, a tra poco Voice Anatomy e Sebastian Torres e Davide Uncini e Gaetano Guardino e Antonio Cerillo e Simone Castagani e Luca Zannini. Una formazione di calcio, vai! Voice Anatomy. Eccoci amici miei, siamo all'ultimo blocco insieme anche della trasmissione. Se non sbaglio, io mi sentirei l'altro brano che avete portato, sempre. Come questa no? Tradizione multietnica e questo è il cammino Il triste cammino. Il triste, tanto per cambiare la vostra allegria, che però suonate in quel modo siamo molto più allegro. Tutto siamo qua. Felici dentro. Il triste cammino. L'altro come si chiamava il cavaliere? Il chinete. Però è più bello il sudamericano dello spagnolo. Cioè è sempre spagnolo la lingua, però il sudamericano è leggero, vola, è dolce. Gli spagnoli sono sempre incazzati. Sempre. E poi sono anche quando doppiano i film, se possono sentire. Cosa che te volevo dire? Che è? No, te volevo dire che te volevo. Te chiero mucho, ma non che me lo rimenà. E invece loro no, in Sud America questa cosa è tutto piccolino, è dolce, è leggero, insomma un'altra cosa. Pensa se era spagnolo Torres, era tutto triste cammino. No, sentiamolo invece dalla voce originale, vai. Aquella vereda donde brillaba el sol, hay un rincón oculto donde nació mi amor. Tengo ahí para ti el corazón, tengo miel de clavel reventón, tengo todas las cosas secretas que tu alma me pide. También una boca que besa y que nunca te olvida. Tú sabrás de mis ansias de amor. Mirarás. Mi dà molto idea di questi bei matrimoni ampi con tanta gente, il mare. Il papà che balla con la sposa, ma che matrimoni belli, eleganti, non il matrimonio bello, elegante da film, cioè da colonna sonora. Ecco, questo certo. È quello che volevo dire. Poi uno, perché può mettere pure un matrimonio, sono intelligente, mette una musica del genere, è meravigliosa. Però è da film, mi dà molta idea di De Niro e lei che ballano dentro l'hotel a Venezia da soli con una musica del genere. Con l'orchestra, con voi. con voi. No, mi dà idea di questa grande eleganza, di questo grande impatto. Elegante, nessuno sopra le righe, nessuno strappo di uno strumento. È molto vero. Attento, molto educato come orchestrazione, come arrangiamento. Che farete adesso, signori? Adesso a parte questa bella avventura Radio 24, io vi ringrazio, mi siete fatti una bella passeggiata. Grazie. Il ringraziamento è sempre da parte di chi invita, cioè, perché uno chiama dei professionisti, non deve chiamare sotto. Questa è una trasmissione che offre asilo artistico a parecchie persone, non soltanto con un nome e cognome, perché è facile, cioè, chiamare Alex Britti o le persone che si alternano a questi microfoni come gli attori, doppiatori, cantanti, è facilissimo, fra virgolette. La cosa bella è chiamare dei professionisti, magari ancora non conosciuti, ma che possono avere voce in capitolo e che magari qualcuno che sta ascoltando si interessi a questa realtà, insomma, vi dà anche uno, certo, una spinta in più. Che cosa farete adesso? State Stiamo preparando qualcosa? Sì, alla stagione estiva e poi ai brani originali, appunto, per il primo disco. Vorrei un duetto con una donna io, però, Allora, assolutamente. Saremo alla ricerca di una donna. Dai, non so. Ciao Sebastian. Nonno, dovete salutare lui. Ma no, senza il lirico non andare. Ma no, senza il lirico non si va. Invece neanche senza Capuano e tutti convocati la trasmissione che ci seguirà. Eccolo qua, io tanto, amico mio, ho già saputo il mio risultato ieri, non mi interessa neanche più di tanto. Io, ma il mio sguardo è a mercoledì a Lazio Juventus. Ma guarda come sei cattivo fisiologicamente. Ecco, dice Valerio da Mocca, l'ho raggiunta, c'è un bellissimo gruppo qui di amici. Come sono i risultati, Capuano? Intanto l'automobilismo ha vinto Hamilton davanti a Vettel, ecco. Terzo Ricciardo, fuori Bottas e Raikkonen, quindi Raikkonen. Fuori i secondi sono rimasti loro due, oggi hanno fatto ruotate. e credo che questa è la quinta di 20 prove del mondiale. Credo che abbiamo visto l'antipasto di una sfida che ci trascineremo fino a novembre. Oggi è andata letteralmente a ruotate Ancora prima la Ferrari, Vettel 104, Hamilton 98, aveva 13 punti di vantaggio, ne sono rimasti 6. Ci sono mille argomentazioni poi dietro questo Gran Premio di Spagna, per cui si può vedere il mezzo bicchiere pieno o anche essere un po' preoccupati per il mezzo bicchiere vuoto. Eccolo là, qui in Spagna abbiamo un sudamericano, per cui di che squadra sei, Sebastian Torres? Di che scuola? Di che squadra? Ah, di che squadra? In Italia? In Italia, pensaci bene, prima di rispondere. Lazio? Lazio, va bene, andiamo avanti. Ruffiano ipocrita. Ti invito ugualmente, Sebastian. I risultati invece, amico mio, quali sono? Detto che l'Inter è sprofondata, ha perso le 12:30, 2-1 in casa col Sassuolo, non faceva così male da 35 anni, 8 partite senza vittorie. Ti dico che il Napoli non è ancora finita, ma sta vincendo 5-0 a Torino. Allora partita, il rischio che possa essere ripreso. Partita davvero strepitosa. Mazza, no, non puoi essere ripreso. Torino poi è una bella squadra, insomma. Stai tranquillo che non puoi essere ripreso. No, ormai io no. E poi sono finite invece due partite che sono molto, che riaprono la lotta per la salvezza, perché l'Empoli ha perso 3-2 a Cagliari, il Crotone ha vinto 1-0 con l'Udinese e siamo al 93esimo, ci sono ancora 2 minuti in tempo di recupero. C'è Juventus Crotone, Genoa a Palermo. Il calendario dice che il Crotone, che sta facendo gli ultimi 2 mesi a ritmo da Champions League, adesso ha Juventus fuori casa e Lazio in casa, ha un punto sull'Empoli da recuperare e quasi certamente 2 sul Genoa. Se dovesse finire così a Palermo, siamo in tempo di recupero, ripeto, Palermo 1 Genoa 0. Quello del Crotone è una vera impresa quella che sta compiendo in questa fase finale del campionato. Sì, poi c'è il 3-1 del Bologna sul Pescara con doppietta di Destro, ma questa è praticamente un'amichevole, e 1-1 in Sampdoria Chievo, anche questa è praticamente un'amichevole. Ore 20:45, esatto, metterà molto pepe Roma questa vittoria del Napoli, perché il Napoli passa al secondo posto e la Roma deve giocare. Sarà una bella partita, lo dico ovviamente da sportivo vero. Va bene, Capuano, ti abbraccio, alla buona prossima, trasmissione, ciao a tutti i convocati, alla prossima. Signori del quartet, non siete del quartet, siete un quintet, sei italiano, perché sempre, c'è sempre un quintet orchestra, eccetera. Invece, ciao Sebastian Torres, in bocca al lupo, mille. Tanta merda che si dice anche dalle tue parti, caro Davide, caro Gaetano, Antonio Simone e Luca, in bocca al lupo. Vogliamo dare i collegamenti della nostra pagina Facebook. Esatto, è vero, bravo. Siamo chiaramente su Facebook con la pagina Sebastian Torres e commerciale dell'Italian Orchestra e sul nostro sito internet, dove sono disponibili anche i brani che abbiamo ascoltato oggi, torresitalianorchestra.it. Benissimo, e allora signori, belle novità in arrivo. Io andiamo avanti come trasmissione sicuramente anche il prossimo anno. Assolutamente. Ciao Valerio, ciao Rachele, ciao Mauro, ciao Alessia, grazie a voi di volerci così bene. A domenica prossima con Voice Anatomy e tantissimi ospiti. Ciao.